Buonasera a tutti, un benvenuto dalla Biblioteca Claudia Augusta. Io sono la bibliotecaria Monica Marcon, per chi non mi conosce, porto il saluto anche della direttrice e dei miei colleghi. Stasera siamo qui per una serata di presentazione di poesia, un libro di poesie, però vorrei ricordarvi anche i prossimi appuntamenti. Quello di lunedì 18 novembre alle 18. Ospiteremo Caterina Fantoni, che è una ricercatrice che ha lavorato qui presso la biblioteca. Il titolo del suo contributo, della sua conferenza, sarà l'archivio digitale e partecipativo della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, la memoria storica cittadina come valore pubblico. Con lei ci sarà lo storico Andrea Di Michele. Vi aspettiamo quindi lunedì 18, oppure il giorno dopo, martedì 19, nell'ambito della rassegna Gascia Don Quatto, questa mostra che ospita in questo periodo la Centro Trevi, proponiamo Alessandro Boscarino, K2, Storia della montagna impossibile. Un volume molto particolare, scritto da questo art designer milanese, che ha un formato anche particolarissimo, che si può stendere per 7 metri. Lo accompagnerà Luca Fregona, martedì 19. Adesso però passo la parola a Roberto Sata dell'Associazione Art e poi buon ascolto a tutti. Grazie. Bene, benvenuti a voi tutti e grazie dell'ospitalità della Biblioteca Claudia Augusta. Oggi appunto presentiamo l'ultimo lavoro ben uscito di Lilia Janeva e che racchiude appunto già da decenni i suoi lavori in stile haiku che sta facendo e ringrazio Adel Jabbar che ha fatto per noi, per il libro la presentazione ed è qui presente a presentarvi appunto il libro nuovo. Gli appuntamenti dell'art dell'Occidente verso Oriente continueranno anche qui e oppure anche altri eventi saranno a fine novembre e a dicembre in altri luoghi. Prima di uscire vi lascio un flyer che vi illustrerà appunto le prossime manifestazioni. Un buon ascolto di questa poesia così densa. Buonasera, grazie per essere qua, per farci compagnia, quindi siete riusciti ad uscire di casa nonostante il tempo, però il libro di Lilia merita, malgrado le condizioni climatiche. Presentare Lilia, io Lilia l'ho conosciuta 6 anni fa. No, di più. Quando sono ho ascoltato per la prima volta Lilia quando presentava il suo libro Vicinanza. Sì. E allora era quasi la conclusione. 8 anni fa. 8 anni fa già? Mamma mia. Volevo fare un po' di sconti, ma non sono riuscito. E quindi il libro Vicinanza era, perché sono arrivato in ritardo, quindi ho ascoltato gli ultimi insomma, momenti di quella presentazione e poi mi sono avvicinato, quindi forte del libro di Vicinanza, mi sono avvicinato a Lilia chiedendole di scambiare insomma, i nostri contatti, così. Poi da quel giorno lì abbiamo avuto diverse occasioni di fare delle cose insieme, di pensare alcune cose insieme e di realizzare diverse cose insieme. E quindi sono anni di collaborazione, di una vera vicinanza e condivisione di anche di sensibilità rispetto alle dinamiche del mondo che ci circonda. E quindi credo molte delle persone presenti conoscono Lilia, cantante lirica, poetessa, insomma nata in Bulgaria, però la sua ricerca musicale e poetica l'hanno portata a pensare al mondo, quindi Lilia rappresenta anche tramite le sue poesie una ricerca di diverse sensibilità, quindi questa ricerca l'ha portata ad arrivare fino al Giappone quindi acquisendo questa forma poetica molto particolare, nel senso magari possiamo dire con minute parole e poche espressioni, però apre degli orizzonti, quindi questa è la capacità, insomma, e la potenza della poesia haiku, sono pochissimi sillabi che aprono veramente mondi vasti e quindi invitano ognuno di noi a continuare la propria ricerca e soprattutto la ricerca interiore, che è la più faticosa, perché tutti siamo capaci a analizzare il mondo, però poi addentrarci dentro i nostri abissi non è la cosa più facile, perché poi si cominciano a porsi delle domande molto spigolose che richiedono un sostare. E quindi i libri di Lilia fondamentalmente un invito a sostare. Sostare per guardare il movimento delle cose che ci circondano. Sostare per guardare la dinamica, il movimento delle cose che circolano intorno a noi. E quindi guardarla con molta attenzione. Io, mentre tornando da lontano, insomma, ho avuto diversi, insomma, traversie con i treni, ritardi, così sono arrivato, quindi ho fatto da casa 25 minuti di cammino per arrivare qua, perché non ho potuto utilizzare la bicicletta perché piove e non sono così bravo, quindi non volevo rischiare l'ombrello e la bici. Quindi ho fatto a piedi, e mentre camminando a piedi pensavo quali sono le parole più pertinenti a presentare questo nuovo, il frutto, insomma, di anni di riflessione. Allora ho pensato che la parola dipinta qua in questo bellissimo volume prezioso, curato molto bene, anche, insomma, pagine abbastanza, diciamo, preziose, le carte utilizzate, e ho pensato che le parole di Lilia sembrano, così a me, mi hanno evocato alcune immagini, e vi le racconto le immagini che mi sono venute in mente. La prima immagine coincide con il tempo, la pioggia, quindi sembrano delle gocce di pioggia che sostano sul silenzio del vetro di ogni finestra, no? Queste gocce che è quasi un gioco, no? Scendono, fanno i loro piccoli brevi rivoli, poi spariscono mischiandosi con altre gocce. L'altra immagine è della rugiada. La rugiada che anche lì ferma sulle foglie degli alberi e poi al risveglio del primo sole, no? Quindi si mettono in moto e cominciano a scivolare anche delle foglie andando lì. Così come la foglia d'autunno. Mentre camminavo vedevo queste foglie. Oggi sono ferme perché l'acqua li ha buttati giù, però ho pensato alle foglie che scendono portati, trasportati dalle brezze, no, del gioco della brezza, portati, trasportati teneramente, così per sostare in qualche luogo in attesa poi di rinascere di nuovo. E quindi queste immagini che mi sono venute in mente mentre pensavo al libro, alla pagina del libro, al libro che sono stato così onorato, perché Lilia mi ha chiesto di fare una piccola, poche righe di presentazione. Io mi sono sforzato, non sono letterato, io sono un sociologo, no? E quindi non sono letterato, infatti il mio approccio non è un approccio letterario, quindi... E ho scritto alcune poche righe per essere, ho cercato di essere il più possibile attinente allo spirito della parola e della composizione poetica di Lilia. Il libro, questa volta, a differenza degli altri, ha solo un'immagine? No, è pieno di immagini. Vanno bene le immagini? Ci sono due immagini di Liliana Santa, che mia figlia, sono due, e più la copertina di dietro, e in più ci sono due immagini dentro e uno fuori, che è la copertina principale davanti, che è dell'artista gardenese Vincent Senoner, con il quale comunichiamo già per il terzo libro. Io lo apro adesso il libro, quindi mi fa piacere che anche questa volta corredato con delle immagini che sicuramente danno calore e colore alla pagina. E quindi io lascerei Lilia a raccontare una domanda che spesso ti faccio. In che momenti nascono queste immagini? Ma io ti ringrazio di questa domanda. Questa è una domanda retorica che mi porgo anch'io tutte le volte che ho creato un haiku. Quindi io ti ringrazio di questa domanda, come ti ringrazio anche di essere qui e di aver scritto questa ottima prefazione. Ha scritto un'ottima prefazione, che è più bella ancora del libro stesso. Così ha scritto perché ho chiesto ad Adele a scrivere questa prefazione, perché lui conosce me, e dunque ho detto: allora, siccome lui conosce me e siccome è uno dei più grandi sociologi in Italia, mamma mia, adesso, che così conosce pure il mondo, allora io, se conosce me e se conosce il mondo, vuol dire che qualcosa riuscirà a scrivere che aderisca al mondo che porto in me. E questa è stata l'unica logica per la quale gli ho chiesto di scrivere la prefazione, e quindi grazie ancora di essere qui adesso e di aver scritto questa splendida prefazione con così tanta conoscenza e consapevolezza nei riguardi di me, nei riguardi dell'universo. Io, perché ti ho fatto un po' di pubblicità, no? Quello che ho scritto, perché lei sta insomma dando molto valore che, insomma, alle cose che ho scritto, semplicemente ho scritto: lungo il percorso di maturazione di questo frutto, Lilia guida delicatamente i suoi lettori, invitandoli a volare alla ricerca di ricordi nati in luoghi lontani, ma che hanno trovato dimore ricondite nella memoria di ciascuno. Quindi alla fine è quello che diceva, è una ricerca interiore, all'interno. Sì, è proprio quello che è, appunto, ritorno alla tua domanda, quello che mi hai chiesto, dove scrivo le poesie. Io credo che io respiro scrivendo le poesie. Cioè, per me proprio la giornata passa scrivendo delle poesie, anche se sembra che io stessi facendo un'altra cosa, perché io sto insegnando, adesso ho sempre più studenti da 2 a 70, adesso ho gli studenti da 4 a 67 anni di età, canto pianoforte per piccoli, grandi, adulti, anziani e tutti. Quindi io ad esempio, mentre insegno, io guardo negli occhi una persona, la capisco, e allora io concludo la mia poesia. Mentre io insegno, sembra che io stessi accompagnando al pianoforte la canzone dei Beatles, oppure la canzone di Vasco Rossi, oppure la canzone di, non so, quale altro, Mozart. E invece io, ad esempio, guardando uno sguardo, capendo una persona, io già sto rifinendo una poesia. Anche oggi oggi ho insegnato per un'ora, perché ho comunicato ai miei studenti che devo andare a presentare il libro, mi sono scusata mille volte, però un signore ha tenuto molto, infatti siamo riusciti a insegnare. Lo sguardo di gioia che ho visto in quegli occhi ancora non riesco a cancellarmelo della mente. Lei mi guardava, ecco, sicuramente, sì, questo sicuramente, ma non era solo perché io le ho aperto gli occhi per questo brano lì, che l'ha cantato, poi l'ha suonato. Lì ero quasi commossa e era uno sguardo incredibile di volo, e sono sicura che su questo lei andava via camminando indietro e io commossa la seguivo, cioè né lei andava via né io rimanevo dentro nella sala, perché dovevo poi spiegarmi, dovevo arrivare qui, eccetera. Quindi questo sguardo è uno sguardo di indimenticabile. Qui sicuramente qualcosa concluderò, ecco, tramite questo sguardo di oggi, di una mia allieva. Quindi sicuramente qualche poesia sta aspettando questa risposta che sicuramente la risposta di oggi è luce. Cioè, luce, cioè secondo me ogni cosa che ci abbia a che fare con la luce è una cosa sana nel nostro quotidiano così di corsa. Appunto io dico anche ai miei studenti, dico guarda che adesso sei qua e niente è come essere qua, ma la stessa cosa anche la poesia, ecco, tu sei fermo là, sei in questo momento in cui tu hai vissuto molte cose e qui tu trovi 3 o 4 o 5 o 6 o 10 parole che includono 10 mesi, 3 anni di vita. E tu durante questi 10 mesi hai cercato di trovare la pietra preziosa che conclude questo haiku, l'ultima parola, oppure ancora la prima parola. E quindi fermarsi nel momento. Che cosa? Questo libro forse ha una novità, però te lo posso dire. Sì, certo. Siccome molti mi hanno detto guarda che io tengo il mio libro sul tuo comodino, spesso lo apro e guarda che sto meglio di solito. E dopo che me l'ha detto 1, 2, 3, 4, dico ma allora ci sto per credere o non ci sto per credere? E dopo che me l'ha confermato ma ci devi proprio credere, risulta che questi libri hanno, questo soprattutto, poi ho messo anche delle poesie che sono anche spirituali, spesso anche religiose, e risulta che abbiano una forza proprio, risulta, non dico niente io, proprio curativa. Io guardo, ho visto questa poesia e lì sono stato meglio, tutto il giorno mi è partito meglio, proprio di salute fisica. Allora che cosa? Ritorno proprio al principio. Perché scrivo i haiku? Ecco, questo interesserebbe un sociologo sicuramente che gira il mondo. Perché io avevo, oggi me lo sono ricordata, io avevo un'amica oboista, un amico clarinettista, un'amica pianista che mi chiedevano quando avevo 18 anni di dargli i foglietti che scrivevo i haiku. E lei dice, ma Lilia, scrivimi oggi due, dai, così me li metto in tasca oppure nella cartella dove tengo gli spartiti. Dicono, dai, tieni queste poesie, mettili nella cartella. Poi un'altra ragazza, Lilia, ma dammi qualche foglietto con le tue poesie. Questo sai che non l'ho mai detto neanche ad Adele, e lui lavora questo, lui fa delle ricerche in tutto il mondo. Non l'ho mai detto, e così ho iniziato a scrivere, quarto libro. E poi anche una signora voleva persino che io le scrivessi in un quaderno un tanti haiku. Dicono, allora se iniziamo così, sarà il caso che io mi decidessi proprio di fare un volumetto. E così nel 2002, la prima volta ho stampato il primo libro, tra l'altro richiesto dalla una edizione molto importante in Bulgaria, che stampava delle poesie di una delle più grandi scrittrici bulgare, poetessa Vlada Dimitrova si chiama, è proprio l'avanguardia, una delle più importanti in Bulgaria. Anzi, avevano sbagliato e mi avevano messo sul mio libretto piccolo libricino, mi avevano messo il suo ISBN, il suo numero. Dice, guardi Lidia, il tuo libro non è ancora pronto, però noi adesso è già pronto, però siccome non è ancora pronto il libro della professoressa grande poetessa, noi ti diamo il suo numero ISBN, quel numero del libro. Così questo è come un augurio per te. Ma io cosa vuoi che capisca a 20 anni? Dico, ma grazie, che bello, ottimo. E adesso a 43 ho capito cosa vuol dire questo. Questo è una conferma, un timbro che io devo fare, questa è una missione collegata con tutti i tipi di arte che io faccio dalla mattina alla sera. E quindi così. La presenza degli alberi, il ciliegio, il tiglio, l'albero, il pesco, sono abbastanza presenti nelle tue scritture. Ma sì, ma quando ci pensi poi che io ho una poesia che dice, ecco forse questo, forse inizio a citare qualche poesia iniziando proprio con questa, ecco, no, non è questa, niente, non lo trovo perché c'è proprio questa, ma è, niente, io gli alberi li vedo come le vene della terra e del cielo. L'albero è una vena che fa vivere sia la terra che il cielo. Quindi io spesso, infatti mi piacciono tanto, infatti quando Adele ha detto che pensava alle mie poesie vedendo la pioggia che cadeva o le foglie per terra perché quello che un albero esprime è un esempio, dicono i grandi saggi del nostro tempo, dicono come un importante esempio filosofo indiano Osho dice: guardate, affidatevi a un albero, vedrete che tutte le volte che lo salutate vi sentirete meglio, prendete confidenza con l'albero. Infatti gli alberi, anche San Francesco, se dobbiamo, San Francesco il santo italiano, patrono d'Italia, ha detto avremo trovato la letizia perfetta quando capiremo la virtù delle piante e delle pietre. E noi aspettiamo tanti altri secoli per capire che dobbiamo ancora capire la virtù, che dobbiamo sopravvivere capendo la virtù delle piante e delle pietre. E io, niente, mi piacciono gli alberi, tutto lì, mi piace il movimento, mi piacciono i colori, mi piace la loro forza, la loro debolezza. Secondo me rappresentano la vita stessa, è tutto lì. In questa pagina qua, dove c'è scritto cadiamo per prendere i frutti della terra, dato di fatto. Cadiamo per prendere, cadiamo per prendere i frutti dalla terra, dato di fatto. Questa è una poesia scritta 20 anni. Ogni forte poesia che una persona scrive nella vita, ogni poeta nella vita, quando scrive le poesie forti, davvero profonde, che le persone si commuovono e persino piangono, oppure sentono semplicemente una forte energia, oppure sentono una cosa più forte di loro, è creata in dei momenti non facili della vita. E quando un momento brutto della vita, difficilissimo, buio, incerto, pieno di rischi, pieno di incertezze, pieno di tristezza, riesca a fiorire e prendere forma di una poesia, il brutto si trasforma in un bellissimo fiore. Quindi è meglio pensare, ed è così, cadiamo, perché cadiamo? Per prendere qualche frutto dalla terra, e questo è un dato di fatto, tutto lì. Questa è un'espressione della fede, detto in modo un po' religioso, oppure è un'espressione della resilienza, detto in un modo psicologico, oppure è un frutto di cercare di andare avanti, ma però non si può spiegare, è semplicemente da sentire. Cadiamo per prendere i frutti. Cioè, quindi è una forma di rendersi conto dei propri limiti. No, rendersi conto che ogni caduta vuol dire che tu hai avuto un frutto. Vuol dire che tu hai trovato un frutto in te stesso, una crescita. Dire rinascita. Ogni rinascita. Sì, sì, è rinascita, è crescita. Sì, crescita. Sì, sì, ogni volta che cadiamo noi raccogliamo un'esperienza, frutto, un apprendimento. Una nuova cosa che impariamo. Una crescita. Una crescita. Però raggrupparlo in tre righe, credetemi, è una cosa piuttosto difficile. Il Tilio che rapporto ha con la tranquillità? Cioè, sì, perché c'è una poesia. Ci fanno bere il Tilio. Sì, perché c'è una poesia. Stai tranquilla, ci sono, Tilio. E questa poesia qui, niente, ha questo profumo, ha questa leggerezza. E quando senti nella vita, ma quante volte mai ci è successo oggi che uno ti dice stai tranquilla, stai tranquillo. Sì, ma con la sensibilità di davvero di accompagnare una persona, non per modo di dire, stai tranquilla, ci sono, aggiungiamo, ci sono, stai tranquilla, ci sono. E qui già sospiri, perché è raro. Tiglio, la natura, il profumo, la presenza, il movimento, l'eternità. Tiglio è il profumo, l'eternità. Ma poi non si possono, ognuno poi li sente come vuole. Questa è la bellezza dello stile greco, nello quale stile io non è che voglio scrivere, mi viene così da sempre, quando avevo 16 anni che ho iniziato. Cioè i significati quindi vengono dati dopo? Sì, sì. Magari dopo mesi. E, E la ricreazione degli alberi è durante l'inverno? Sì, la ricreazione... Siamo vicini. Esatto, la ricreazione degli alberi, inverno. Infatti, lì è proprio... Niente, lì è proprio da immergersi. Bisogna neanche tanto leggere la voce alta, semplicemente leggerla e lasciarsi alla meditazione. Quello che provoca una poesia così. La ricreazione degli alberi, inverno. Sono parole che non si possono spiegare, sono scritte tanti mesi, sono state vissute, credetemi. Hanno chiesto a un grandissimo poeta giapponese che si chiama Takumoku Ishikawa di spiegare come scrive i haiku e lui ha risposto, credetemi, con molta fatica. Proprio perché tu da un evento, da qualche avvenimento, da un periodo piccolo o grande, di un incontro, più incontri, tu raccogli con la tua attenzione, con la tua sensibilità a pelle, tu accogli i milioni di attimi per riuscirli a scaturire, ad acchiappare in tre righe. Anche meno. Anche meno. E in una della poesia crei questo rapporto a proposito di alberi che sono molto presenti nella tua scrittura. L'albero che rapporto ha come simbolo di dignità? Io ho scritto quella poesia, gli alberi, ecco quella poesia, gli alberi ci chiamano per nome, dignità. Allora, io adesso spiegare i haiku è una cosa piuttosto molto speciale, perché è come spiegare perché il cielo è così azzurro oppure perché questa foglia d'autunno è così colorata. Ma quando tu pensi che fai parte di questo mondo eterno, l'albero, che è una presenza eterna, a prescindere di qualsiasi cosa che accada, sentir vicino la presenza delle piante è come una forza che ti rende anche te eterno. E perciò, ecco, gli alberi ci chiamano per nome. E questa è una grande dignità. Avere la dignità di sentire la natura. Ti senti... Tu hai la dignità che ascolti la natura. Dunque, ascolti l'universo, ascolti l'eternità, ascolti te stesso. Ma anche perché sono... Gli alberi sono... Gli alberi sono alti, sono forti, fermi, sono grandi, sono fermi, sono, si muovono. Anche, come dire, resistono. Sì, sono eterni. Sono eterni, sono un esempio. Io poi ho un'altra poesia. Se lo fanno gli alberi, perché noi no? Se lo fanno gli alberi. Quindi un invito per interrogarci. No, sì. Sì. Quindi una ricerca per rimanere eterni? Sì, sì, non è un po' impegnativo? Non è una ricerca, no, è come una necessità, è come una sicurezza, allo stesso tempo una certezza. Perché noi lo siamo. Perché l'anima rimane. Perché la forza che tu trasmetti rimane, è la forza della luce. Noi siamo delle cellule dell'universo, noi camminiamo tra i pianeti. Noi siamo delle cellule dell'universo. Noi camminiamo tra i pianeti, noi siamo una parte dell'universo. Vogliamo. Noi cioè, leggendo come, mi spiego meglio, tramite l'arte ad esempio, noi vedendo un quadro, ad esempio io conosco il pittore della Val Gardena, un noto pittore che si chiama Vincent Zenon, che illustra già il terzo libro mio, ho visto questo angelo, lui me l'ha presentato nel 2010, e io dico, ma quanto mi piace, è una persona con le ali, ma perché mi piace? Perché mi sentivo già leggera, come fosse l'arte provoca la nostra eternità, l'arte richiama la nostra autenticità, l'arte ci provoca a noi ad essere quello che siamo, a volare, come ho detto poco fa. E non è una lotta contro i mulini al vento, non è una romanticata cosiddetta oggi perché mi piace. È la realtà, l'unico scopo dell'arte è farci sentire liberi e a conoscere noi stessi. E dare che cosa? Dare un po' di bellezza, un po' di luce a chi ci vede, chi ci ascolta, chi ci legge. Ad esempio questo quadro qui, a me faceva avere una sensazione di volo incredibile, indescrivibile. E perché? Perché è indescrivibile e incredibile? Perché è artistica, la profondità artistica è sempre inspiegabile, indescrivibile, è incredibile. E quindi questo quadro, adesso, 9 anni dopo, io ho capito che devo metterlo nel mio libro e l'ho messo sulla copertina. Ma ci volevano 9 anni che io capissi perché questo me lo presentava tutte le volte quasi che ci vedevamo. E così ho capito. Infatti, nel tuo libro c'è una poesia che io poi ho utilizzato nella prefazione, che recita così: ti regalo un'ala in due. Quindi c'è questa coincidenza tra la copertina e la poesia che hai scritto tu, che poi io l'ho assunta come simbolo fondamentale di questo frutto. Infatti dicevo grazie di questa comprensione, perché poi ad abbinare, tu non so neanche se sapevi che io mettevo questo quadro sulla copertina. E non lo sapevo neanche che mettevo questo quadro sulla copertina. Perché? E poi, no, adesso che queste sono tutte empatie, siccome queste poesie sono una sorta di meditazioni, non possono che scaturire nelle persone sensibili l'empatia. Io questo pittore qui, ho avuto questo quadro e ho scritto quella poesia dell'ala totalmente indipendentemente da lui. Quindi questa è una questione di un'empatia artistica che si è creata. Che Adele, leggendo la poesia, non sapendo neanche il quadro, l'ha messa pure nella prefazione come poesia importante, che sarebbe questa, infatti: ti regalo un'ala in due. E questo è il cuore del libro. E lui non aveva neanche visto il quadro. Si creano delle empatie artistiche che sono come delle pietre preziose. Infatti io nel 2002, nel primo libro, avevo scritto una poesia: non perdere la pietra preziosa, me lo prometti? Io ho un'amicizia con un cantante lirico che ogni tanto ci sentiamo e mi dice: Lilia, ti ricordi che mi hai letto la poesia del 2002? Non perdere la pietra preziosa, me lo prometti? Perché questa è l'empatia, questo è il movente, perché noi adesso ammetterci, possiamo anche lamentarci. Io adesso potrei iniziare: oggi è successo questo, oggi è successo questo, oggi siamo stati delusi, oggi abbiamo pianto, oggi siamo stati amareggiati, oggi sono stata amareggiata, oggi sono stata pensierosa, oggi sono stata incerta. Non posso raccontare di tutti i colori di questo genere lì. Ma io, anziché raccontare queste cose, preferisco dire: ti regalo un'ala in due. Oppure dire, la luce è una cosa da cogliere, Lilia. Oppure dire, i mari del Nord e i loro molluschi stanno per partorire una perla, Luci. Ecco, io anziché dire tutte queste cose che in una giornata complicata, ad esempio oggi ho avuto una giornata abbastanza complicata, anche con delle soluzioni che non sempre si possono subito risolvere così, però è come un alzarsi lo sguardo verso le nuvole, è come alzarsi lo sguardo verso il cielo, anche se piove, la pioggia è bellissima, la pioggia è purificatrice. Sono flash poetici. Sì, sì. Poetici creati, sì, nel momento probabilmente in cui, sì, si vive quella sensazione. Sì, esatto. Ecco, perché anche io scrivo poesie, però sono su un altro mondo. Complimenti. No, perché grazie della tanto argomenti sostanziali, poi sì, in versi con parecchi versi, sì, questo netto, sì, e quindi però ho colto proprio la sua sensibilità in questi momenti che ci sta spiegando queste cose. Oh, grazie della comprensione, grazie. Io ho iniziato a dire che il libro, la poesia in generale di Lilia, è un invito a sostare. Infatti anche qui ho utilizzato un'altra poesia nella breve prefazione che ho scritto, e così insomma leggo una parte della prefazione. E in questa raccolta l'autrice dona alle lettrici e ai lettori pagine a forma di ali per condividere il frutto di una profonda meditazione che fa delle attese un tempo capace di accogliere l'imprevisto e l'inatteso. E quindi citando la poesia, proprio quando, questo è l'invito a sostare, proprio quando aspetti il bus, renditi conto che non lo aspetti. Indicazione. Infatti, proprio quando... Imparare a perdere qualcosa. Sì. No. Questo è difficilissimo spiegare, perché questo è anche un frutto di molto di te. Questa è una poesia così chiamata, sì, nello stile giapponese waka, che contiene cinque righe di poesia, ed è così. Proprio quando aspetti il bus, renditi conto che non lo aspetti. Indicazione. Questa è la sostanza dello Zen. Questo parte dello Zen buddismo, che non è religione, ma è filosofia di modo di vivere. Così come quando noi diciamo abbiamo la meditazione della preghiera, è la stessa identica cosa che loro hanno le meditazioni. Quindi, allora aspettano senza aspettare. Io ho avuto l'occasione di essere in Giappone a presentare il mio libro lì nell'Istituto Italiano di Cultura, e lì il libro precedente, che è Vicinanza, che è scritto in italiano, tedesco, latino e bulgaro, e lì ho visto i zen buddisti. Che cosa fanno loro? Loro sono autentici, si muovono, fanno delle cose semplicissime, salutano, gentili sono, quindi hanno una sensazione, così come anche da noi vediamo nel mondo cattolico, anche i sacerdoti, le suore, fanno delle cose semplici che provocano questa pazienza e questa meditazione continua. E quindi renditi conto che aspettando tu non lo aspetti, è come avere sempre pazienza, è come tu avere sempre meditazione, è come tu avere sempre sicurezza e fede in ciò che ti succederà, e tu lo accetterai. Come dice San Francesco, sì Signore, sì, è sempre sì. E l'amore entra dalle orecchie, tra le labbra, e domina tutte le cellule, i pianeti. Percorso. Sì, quello l'ho scritto io. È meno male che l'ho scritto io. Sì, ho modo di dire, che sempre dico, quando uno legge le poesie, soprattutto se è stata cara, se è stata scritta in un momento abbastanza speciale, dico, quello l'ho scritta io. È certo che l'hai scritto tu, sta nel tuo libro. Chi ti dice che... Però, infatti, che percorso è il percorso dell'amore? Entra nelle orecchie. È la prima pagina proprio. È la prima, infatti inizia il libro con questo. L'apertura. È l'apertura che inizia così. L'amore entra dalle orecchie, tra le labbra, e domina tutte le cellule e pianeti. Percorso. E come ve lo devo spiegare? Questa è una poesia... No, ti tocca spiegare, perché... Oddio! Beh, perché l'amore incuriosisce. Sembra una cosa saputa, risaputa, si parla molto dell'amore, però poi rimane effettivamente un percorso abbastanza insidioso, no? Sì, sempre da scoprire, no? Ma sostanzialmente l'amore davvero entra dalle orecchie, una sensazione. Queste sicuramente sono delle sensazioni che io descrivo. E come avevo scritto anche un'altra poesia, la tenerezza profuma di giacinto. L'avete sentito? E c'è stato un... così, perché quel profumo, come ve lo devo spiegare? È identico, è un profumo, è una sensazione. Sì, ma potreste essere più esplicita. Ma è strano che entra dagli orecchi, in genere entra dagli occhi. No, entra dagli orecchi. E ha dato molto risalto al... dell'udito, ma non solo dell'udito. È una sorta di avvertimento, avvertire la persona, di avvertire. Ho detto, sono delle empatie, sono dei momenti di meditazione, sono dei momenti che rappresentano degli incontri. Così come, appunto, dicevo quest'altra poesia, faccio un paragone, che è nel libro scorso, che si chiamava Bocciolo, che c'è stata una signora bulgara che vive a Parigi, quindi una francese, naturalizzata francese, che ha fatto delle ricerche, ha scoperto che ho fatto delle rivoluzioni, delle riforme nel modo di scrivere haiku. E una di queste è proprio questa sensazione, le parole che creo. Ha scritto 3 pagine di analisi sul mio modo di scrivere haiku, che è tutto riformato così come lei. Ha scritto 3 pagine di analisi senza che io la conoscessi questa signora, l'ho conosciuta dopo. E una di queste caratteristiche che lei dice che è così, che è nuova questa cosa nel mondo dei haiku, è proprio riuscire a esprimere in poche sillabe la sensibilità del momento. Sì, perché tu di fatto hai scelto un stile giapponese, sei anima bulgara e lo scrivi in italiano, e quindi questi incroci naturalmente influiscono la composizione. Appunto, è universale. In che modo li trovi l'essere bulgara, l'uso, lo strumento delle lingue che è l'italiano? È il riferimento culturale di questo stile che è giapponese, cioè in che modo? Cioè, hai pensato a questa combinazione? Sì. Sì. E come c'è, noi lettori e lettrici, sì. Dove troviamo questa combinazione? Sì, la troviamo nella sofferenza. Perché ciò nella sofferenza. Perché non appena una persona ha vissuto tante cose nella vita non facili, non può che rimanere triste e giù di morale, oppure non può che creare delle poesie o delle arte. A me, per missione, non per scelta, è venuto questo stile di scrittura, di haiku. Quindi, come la perla nasce quando nel mollusco si crea un problema per lei nasce riuscendo a volendo combattere questa cosa che c'è nel mollusco. La perla nasce grazie alla sofferenza che subisce. La poesia, purtroppo, ve lo devo comunicare, che è un frutto della ricerca interiore della sofferenza. Lo dicono proprio i grandi maestri giapponesi. Ma tu hai tentato anche scrivere il haiku in bulgaro, giusto? Sì, io ho scritto in effetti. E la sfumatura tra l'italiano e il bulgaro? Io dico che non importa in che lingua è stato scritto, perché richiami sempre il vissuto interiore e purtroppo ve lo devo dire, la sofferenza, la ricerca interiore. E per quel che riguarda in che lingua verrà fuori la poesia, siccome sono fino adesso stati in bulgaro, francese, italiano, tedesco e latino, questo dipende di una sola cosa, il suono. Il poesia deve suonare in un certo modo. Io avevo un libro tutto quanto in bulgaro e in italiano, tutte quante le poesie erano tradotte sia in bulgaro che in italiano, e 5 le ho lasciate in bulgaro perché non suonano in italiano. Posso chiedere perché sì. Non usa il riferimento alla stagione nei suoi componimenti? Cioè, c'è come potrei dire, avvicinamento a laico, però laico è diciamo un riferimento alla natura, ma anche alla stagione, per cui questo è il giapponese vive con la stagione. Per cui io non sento molto questa vicinanza alla stagione. Sento che lei è vicina alla natura, però non alla stagione. E questo mi manca, insomma. Io spesso nomino, se lei conosce bene i miei libri, io spesso nomino l'autunno, l'estate e la primavera, quindi si tratta di conoscerli un po' meglio, prima cosa. E seconda cosa, come ha detto questa signora francese, io ho fatto una rivoluzione, una riforma nel haiku, che si avvicina piuttosto al metodo della più sensibilità nei riguardi delle personalità. E questa è una riforma che è stata fatta, me l'ha scritta questa signora che ha analizzato per bene i miei 3 libri fino adesso, questo non lo conosce ancora. E quarta cosa, io a Faenza 2 giorni fa ho avuto la presentazione del mio libro fatto dal professor Marco Del Bene. Marco Del Bene è un professore della Sapienza di Roma che si impegna con la storia del Giappone. Dunque, sono stata molto stupita da quello che abbiamo parlato, e lui ha detto che gli scrittori haiku del XIX, ma soprattutto del XX secolo, tendono a rompere questo schema antico, e lo considerano anche conservativo, nella scrittura dei haiku appoggiandosi solo sulle stagioni, quindi è una cosa che succede pure in Giappone. Allora dite a questo professore che non è vero, perché in Giappone ci sono tante correnti, c'è ancora la corrente molto molto tradizionale, che scrive ancora Shasei Haiku, che sono quelli proprio tradizionali, 5-7-5 con tanto di Kigo e così via. E poi ci sono i haiku, per esempio i Gendai Haiku, che sono quelli moderni, però ne leggo anch'io qualcuno di haiku tradotti, e vedo che il più delle volte c'è il riferimento alla stagione. Ma sono delle diverse correnti, ma siccome nell'arte uno deve essere libero, dobbiamo mantenerci alle schede. Ma libero, sa, io penso questo, che se è troppo libero, una persona che legge un componimento, come fa a riconoscere se è un haiku o se è una poesia in tre versi? Per l'essenza quale contiene, per il concetto, per la concentrazione delle parole. Guardi che ci sono anche tante poesie che hanno contenuti profondi, anche se non sono haiku, non è che per la traduzione. Quando una poesia è tradotta in giapponese, io ho avuto anche riferimento come Rossella Maragoni, che è la più importante nipponista in Italia, lei mi ha detto che queste poesie tradotte in giapponese prenderanno naturalmente la forma del 5-7-5. Grazie. È nata in lei prima questo stile, sì, o prima la poesia, o prima... È nato prima il modo di scrivere, dopo ho capito che era haiku, oppure ha conosciuto prima haiku e poi ha scritto in base... Sì, io ho iniziato, allora questo è molto interessante forse, perché io ho iniziato a scrivere in modo tradizionale le poesie haiku, proprio nel 2000, proprio appunto a rispondere a lei, cioè ho iniziato a scriverle e venivano sempre in 5-7-5 righe, sillabe. In un certo momento mi sono accorta che sto uscendo da questa forma e ho telefonato appunto a questa persona a Milano che mi ha dato questa risposta. Tutto lì. Ma concludo, quando si tratta di arte, noi non dobbiamo avere la cornice, prima di tutto, e non dobbiamo avere, soprattutto se cerchiamo un'arte sincera, un'arte autentica del XXI secolo, ma soprattutto dobbiamo avere una totale mancanza di gara e di paragone, perché se non ci paragono, ad esempio mi arriva uno studente e fa: Lidia, io non sono brava come lui, allora io non canto al concerto. Dico: tu sei unico così come sei, e sappi che tu sei molto, qui da me facciamo arte, cerchiamo di cantare insieme, ma vuol dire che vogliamo fare un po' di arte, allora non dobbiamo paragonarci, come avesse acquisito 100% delle proprie capacità questo stesso giorno. No, prego. Però se io ho un pezzo di metallo, anche se ha tante virtù, e può anche, però non posso dire che è legno, capito? Cioè, se io ho metallo, è metallo, non è legno. Mm-hmm. Per cui la distinzione bisogna anche saperla fare, perché se incomincio a mischiare tutto, la cosa non è più autentica. Cioè io ho capito, se io voglio fare un pezzo, avere un pezzo di legno, non posso prendere una cosa di metallo e tagliarmi giù un pezzo e dire adesso questo è legno. Matsuo Basho, uno dei più importanti scrittori di haiku in Giappone, Matsuo Basho, ha detto così, e questo è stato citato nel mio terzo libro, se lei conosce il bocciolo da Rossella Maragoni. Lilia dice sì, riesce a mantenersi sempre bene nello stile haiku, perché Matsuo Basho ha scritto così: se una persona si mette a disposizione della natura, in sintonia con la natura, in predisposizione di essere vicino alla natura costantemente, non può che scaturire un haiku. Sì, adesso poi questo si può poi interpretare in diverse cose, perché ci sono anche componimenti, come dicevo, di natura, diciamo, che hanno la natura come tema, come, ecco. E però lo stesso non sono haiku, per cui non è... Non portano la sillaba necessaria quando saranno tradotti in giapponese, oppure portano la riforma che io stessa ho fatto. Grazie. Non dobbiamo fare delle discussioni, non dobbiamo fare delle gare, ognuno porta la sua, grazie di queste parole. Sì, no, ma... Se qualcun altro ha qualcosa da dire, prego, prego. Il discorso che volevo fare io è un discorso forse che arriva alla base. La poesia, sì, è qualcosa di grandioso. Naturalmente, se parliamo di poesia vera, per me la poesia è una medicina della vita, certo, è un alimento della vita, certo, di tutte le persone, non, certo, di tutte le persone, di tutte. Io la poesia, certo, che ho scritto e che, certo, presenterò qui, per me è questo, certo, il problema. Ma allora la poesia classica, se parliamo di poesia, intanto deve essere poesia in versi, sì, per cui sono dei versi, poi ci sono i sonetti, sono... Questa è la poesia normale alla quale io mi sono ispirato e penso di riuscire in qualche modo a fare una battaglia. Le poesie sue sono poesie bellissime, però fanno presa su pochissime persone. È arte, però l'arte non è accessibile a tutte le persone. Perché? E perciò io le sto scrivendo e vanno nella, sì, casa di chi ha bisogno, no, di essere. No, io sì, esatto, e vanno nella casa di chi ha bisogno di essere. Quindi per perché la conversazione è interessante. Infatti questi momenti servono anche per, sì, certo, conversare, ampliare lo sguardo. Due considerazioni, nel senso che c'è una legittimità di uscire dei canoni classici per rispondere, per, certo, certo. E quindi questa, cioè, le innovazioni avvengono anche perché i tempi incidono, no? Che c'è il tempo storico oggi, del resto. Nel caso di Lilia, come dicevo io, questo essere bulgara come animo e riferirsi ad uno stile che sì, distante culturalmente, no, dal suo vissuto, quindi usa questo schema e lo scrive in italiano. Io credo che questa combinazione produce dei cambiamenti, fa uscire la poesia della sua classicità, dei suoi casi. Se lo fanno già in altro adile fra l'italiano e il tedesco. Esatto, probabilmente è successo questo. Nel senso che le innovazioni a volte sono necessarie, e quanto è poi sicuramente ogni rottura con gli schemi precedenti produce, no, della controversia, anche delle critiche, eventualmente anche della polemica. Però vorrei tornare al discorso che faceva Lilia sul fatto la sostanza, l'essenza di questa poesia, sì, no? Che rimane in qualsiasi, sì, lingua espressa. Sì. Allora ci è capitato poi noi due, insieme, sì, ad altre nostre amiche, sì, albanese, siamo stati coinvolti in un esperimento poetico, qui due giovani ragazzi letterati, artisti, insomma, tirolesi di lingua tedesca, e ci hanno trascinato a scrivere ognuno nella propria lingua della poesia. È stato un esperimento molto interessante, e poi questa poesia, in qualsiasi lingua poi espresse, venivano tradotte da persone che non conoscevano la lingua. Sì. E, però catturando alcune, come dire, alcune espressioni, alcuni sentire, suoni, alcun sì. suono. Quanto c'entra la musica con le sue? È la musicalità, tantissimo, infatti, tantissimo. Infatti a me è capitato di tradurre sì. una poesia del ladino. Se non c'è la musica E poi ci siamo trovati che quella poesia lì è stata tradotta da 5-6 persone che non conoscevano il ladino. Sì. E però poi ognuno di noi, a modo suo, dicono, no, è stato un tradimento naturalmente, è tradimento evidente, no? Però ognuno di traduttori ha dato esalto ad alcuni aspetti della poesia, sì. Che nel senso che io ho dato, ho catturato alcune parole che poi ho lavorato molto sulle immagini del viaggio. Qualcun altro sui profumi, no? Cioè, e qualcun altro su altri aspetti, quindi effettivamente abbiamo tradito le poesie, però ognuno di noi. Ognuno di noi è presente. Sì, come l'onde nel libro di Lilia, l'onde, ognuna poi è diversa dall'altra. Quindi, secondo me anche la poesia è un mezzo di ricerca, secondo me. A volte sì, cioè necessariamente esce, no? Perché siccome è una ricerca interiore, una ricerca anche di meditazione, e esce dai canoni terreni da un certo punto di vista, no? Lei diceva giustamente come le poesie deve uscire. Lei ha parlato della poesia che praticamente dei sintomi attentamente le poesie ti portano al valore effettivo che hanno e la signora con quegli stimoli credo che queste sono cose bellissime, però bisogna sempre essere d'accordo su questo, potrebbe essere se non si legge attentamente una poesia, perché ci sono anche le poesie, c'è anche la prosa poetica, perché si fanno magari delle belle discussioni, alla fine devi trovarci la poesia che non c'è, o qualche volta c'è, o che non si coglie, che non si coglie. Perché visto che, parlando di poesie, le persone che hanno una sensibilità e che si dedicano un po' attentamente riescono ad avere delle soddisfazioni bellissime come ce le ha detto e come ce le ha trasmessi stasera anche con alcuni flash. Io ho intuito quei flash, però ci saranno persone superficiali, una poesia la vengono o non la vengono. C'è una cosa, io non lo scrivo per le persone, lo scrivo per me, quello che dico io, ma soprattutto io sono stimolata di scriverla, perché sento che le persone che mi dicono dammi quel foglietto, scrivimi 4 poesie, scrivimi 4 haiku, perché ho pubblicato in una delle più importanti riviste, anzi in 2, una in Bulgaria Sofri, che si chiama Cultura, che è proprio la più importante rivista bulgara della cultura, e qui in alto c'è della rivista Cristiano, io ho pubblicato dei haiku. E poi ci sono quelle persone che hanno bisogno, dice, tutte le volte che leggo le tue poesie, proprio me l'hanno detto degli specialisti, professori universitari, io ho qualche giovamento nella mia salute. E lì è tutto. E io sono d'accordo con te. Lo schizzo di luce non guasta mai. Lo schizzo di competenza non guasta mai, dunque andiamo avanti così. Credo che possiamo, come conclusione, chiedere gentilmente a Lilia di leggerci 2 o 3 componimenti. E uno li indico io, il primo. Sì. Grazie. Questo manca. Quando sai che qualcuno non dorme, festeggi tutta la notte tra le stelle. Tanto. Grazie. Inverno. I miei nonni ritornano nei fiocchi di neve. La magica fiera. Bosco. Quando le onde si agitano, I gabbiani si guardano negli occhi. Blu. Al tramonto, l'aria quasi liquida. Tokyo. Da sola, sono poca. Presenza. Grazie. Olivia, il libro è qui, a vostra disposizione, è un libro, potrebbe essere un bel regalo anche di Natale, e con questo grazie, grazie a Lidia di nuovo, grazie, grazie all'Associazione Arte, alla Biblioteca Claudio Augusta, grazie in particolare a voi. Annuncio l'ultima cosa, il 23-24 di novembre, un sabato e domenica, ci sarà un'iniziativa particolare sul tema del cibo. Nella pittura ci sarà anche un buffet particolare, ci sarà una conversazione intorno al tema del cibo e sarà qui proprio al centro Trevi, il 23-24, i programmi sono lì, che potete ritirarli. Grazie.